Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Ogni giorno alle due la stessa storia, c'è lo zoo e si fa baldoria, in onda su 105. Oh, come Azzoli da Miami e da Milano gli altri scemi, ballerina, Noyz, Alizei, Wender, Macho, Ivo, Spine e Palmieri. Più fedele allo zoo da fine 90 ancora, mi chiedo, ma Luca Alba come cazzo ha fatto ad entrare? Deve andare a lavorare, questo è lo zoo e non può morire, e tutti gli altri la possono succare. Il cielo leone tende la mano e parte un coro che già conosciamo. Io ascolto lo zoo di 105, io ascolto lo zoo di 105, io ascolto lo zoo di 105, io ascolto lo zoo di 105, io ascolto lo zoo di 105, io ascolto lo zoo di 105.